24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci, le 6:33 minuti, siamo qui, siamo pronti nel nostro mercoledì di 24 mattino con la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino più che mai pronto alla regia, e pure dagli Emirati Arabi Uniti o dall'Oman, dal Qatar, dal Kuwait, non ho capito bene dove sia, forse è entrato il consiglio del nostro presidente. But please relax. Come sempre siamo pronti ad aprire il nostro bar e come sempre al mercoledì con la nostra bella Nicole troviamo il direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci, pare, Luca, te lo dico subito, pare che scenda in campo per le primarie del PDL anche lo scopritore di Nicole Minetti, nel senso colui che l'ha lanciata a Colorado Caffè, ecco. Ne sentivamo la mancanza. Sì, perché erano in pochi e quindi esatto. Sì. Paola Saluzzi, buongiorno e benvenuta. Ma buongiorno, eccoci Alessandro, qua. Buongiorno direttore. Ma le primarie del PDL poi si fanno? Ah, non lo so. Questo oggi Corriere della Sera ci titola così: le primarie del PDL forse verranno cancellate, punto. Comunicazione di un titolo, questo è. Ma staremo a vedere. Il red di test l'avete fatto? Non ancora. Allora, intanto mettiamoci con questa musichetta che l'Agenzia delle Entrate ci regala. Se uno si collega sul sito YouTube dell'Agenzia, sentite. Benvenuti nel canale YouTube dell'Agenzia delle Entrate. Grazie. Oggi vi presentiamo il red di test, con il quale potete valutare la coerenza tra il vostro reddito e le spese sostenute nel corso dell'anno. Poche, però. Sentite, sembra che ti offrano una caipirosca con questo. È disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e si scarica direttamente sul vostro computer. I dati inseriti rimangono in forma anonima e non vengono inviati all'Agenzia delle Entrate. Io mi vedo anche il pianista live che suona intanto. Di test sul web. Tutti i dati restano sul vostro computer. Vediamo insieme come funziona. Ecco qua, vediamo insieme come funziona. Allora, non avete fatto il red di test, però bella la musichetta. Sembra quasi veramente che ci sia il pianista dietro, come in quegli alberghi dove suona e fa ambiente. Allora, Befera ha detto che 1 milione di famiglie spendono ma non hanno soldi. Magia. Luca Dini, come mai? Il miracolo italiano. Sì, purtroppo li vediamo, ci sono sempre stati, lo sappiamo. Ci chiediamo quando questa cosa finirà. Io penso sia veramente la vera piaga italiana è questa qui. Insomma. La battaglia vera, no? Quella contro l'evasione. Sì. Però proprio si leggono questi titoli. Io non so quanto faccia bene, vorrei chiedere il vostro parere. Befera affila le armi, da gennaio cambia tutto. Cioè è veramente l'idea di una guerra sotto traccia, no? Caro evasore, sono arrivati gli spot con l'evasore anche incarnato da una persona. Cioè è davvero questa la strategia da utilizzare? Paola? Avere un ordine nelle spese che si fanno e avere un'idea, una coscienza, insomma, di quello che si va a spendere, io la vedo sempre col mio bicchiere mezzo pieno da spietata ottimista, può avere un suo senso e un suo perché, e sicuramente evitare l'evasione in quanto tale all'interno del nostro paese costituisce un valore. Forse, ecco, dire affila le armi, ecco, dare l'idea di questa competizione tra cavaliere buono e cavaliere cattivo forse mette un po' d'ansia. No, sì, siamo anche noi giornalisti. Noi giornalisti, no? La semplifichiamo così: evasore, sì, no, verrai stanato. Sì, anche perché l'evasione. Sì, perché quello va semplificato in quella maniera, insomma, non possiamo metterci a fare poesia più di tanto. Certo, la musichetta ti accoglie bene, ma poi dice, se sbagli esplode il computer, no, questo succede? no, esce per fuori una voce cattiva, no, però la domanda, cambia voce la signorina, però la domanda che vorrei fare è questa anche a Luca Dini: esiste un'evasione di necessità secondo te, direttore, in Italia? Perché molti italiani dicono stiamo a livello di pressione fiscale che è inimmaginabile. In America sono al 23, al 25%. L'evasione totale non può può essere di necessità, perché o si è veramente poveri e in quel caso la pressione fiscale non è certo al 65%, oppure l'evasione totale di certo non può essere di necessità. Non voglio con questo stabilire una graduatoria, cioè è brutta anche l'evasione parziale, però certo nella scala delle gravità tra chi è totalmente invisibile al fisco e chi ha commesso qualche peccato veniale, una differenza ci deve essere. No, quella ci deve essere, anche perché sono moltissime le persone che ci chiamano, sentiremo credo anche qualcuno in segreteria dire io non riesco a pagare le tasse, ma anche volendo, perché ci sono delle situazioni appunto di necessità nelle quali magari sono costretto a dichiarare il 70% di quello che faccio, sono costretto a dichiarare un po' meno, altrimenti non ce la si fa. Allora che si fa a questi? Che si deve fare? Onestamente c'è un problema che ci si deve porre sicuramente. Io credo, però che questo... vai direttore. No dico semplicemente si arriverà a far pagare di meno a questi che obiettivamente hanno difficoltà a pagare tanto solo quando tutti pagheranno. È proprio una cosa l'idea del pagare tutti per pagare meno tutti, sì. Allora io vi voglio far sentire, intanto fervono gli ultimi giorni delle primarie. Ieri c'era stato un Maurizio Crozza molto molto in forma, si è travestito da sceicco a un certo punto, perché c'è Monti che è in giro da quelle parti e quindi gli sceicchi di questi tempi vanno molto. Sentite cosa ha detto Crozza, sceicco al Crozza. A tutti i candidati primarie PD, tutti in TV, apri i programmi sportivi, c'è Bersani, che due coglioni, apri il TG, c'è Vendola, apri il programma di musica, c'è Renzi, e vedo Renzi, dico basta, guardo film porno, c'è Renzi! Noi diamo petrolio a voi, voi date Renzi, scambio alla pari. Barile in cambio di bidone. Beh, barile in cambio di bidone, questa era straordinaria. Tra l'altro c'era lì Renzi che lo guardava. Effettivamente Renzi è un po' dappertutto. Lo trovo anche su Vanity Fair, direttore, anche su Vanity Fair, è l'uomo del giorno. Ma è l'uomo Crozza. Ha ragione Crozza, no? Barile in cambio di bidone. E Renzi imperturbabile, ha fatto un sorrisino. Forse era lì a dire no, non posso dire niente contro Crozza. Ma Renzi ce la farà, Dini? Ce la farà oppure no? Mi sembra un po' un Everest da scalare, il suo. È difficile. Cioè, è evidente che se ce la facesse alle primarie sarebbe più facile per lui farci alle elezioni, forse. Questo sì. Ma che vi ha detto oggi in questa intervista a Vanity Fair? Immagino abbia parlato anche di cose un po' diverse rispetto alla politica che tratta di solito. Ha detto che sono stati mesi molto pesanti per la sua gestione familiare. Devo dire, questo mi ha colpito abbastanza, perché ha parlato della moglie e del rapporto con la moglie in termini moderni, nel senso, dice, sono stati mesi pesanti perché eravamo abituati a dividerci compiti abbastanza, come si fa nelle coppie della nostra generazione, e io da qualche mese sono sparito e vivo nei sensi di colpa verso i miei figli. Ora ci sarà certo anche un po' di automarketing, però comunque sì. Mi ha colpito perché in questo forse si vede la differenza sì, rispetto anche alla politica, diciamo. Una nuova generazione, effettivamente è così, è un po' un Renzi che è in giro per l'Italia e quindi immagino abbia delegato un po' di compiti, no? Non so se Paola Saluzzi, tu da donna la vedi? Li ho visti a tutto Benigni, tutto Dante anzi, scusatemi, il primi di luglio quest'estate a Firenze, e visti insieme Renzi e la moglie danno esattamente questa idea, quindi credo che l'immagine che esca fuori dall'intervista di Vanity non corrisponda ad una volontà di marketing del personaggio, cioè sono veramente una coppia giovane di oggi, che ti dà veramente l'idea che sì, uno accompagna a scuola il bambino quel giorno perché l'altro sì. È impegnato, poi l'altro dà una mano a casa perché l'altro ha da fare, insomma. C'è una certa verità nel vederli insieme, e questo forse aiuta ancora di più, insomma, ecco, credo che su questo non ci sia stata costruzione di qualcosa. Infatti il padre di Renzi ha detto spero che mio figlio perda. No, ma è testuale. Il padre di Renzi ha detto: spero che mio figlio perda perché. Perché no? Perché ha detto: perché a livello familiare è meglio così. Hai messo in piedi quell'ambaradante per dire: spero che mio figlio perda. No, però, l'ha detto proprio in questa chiave. Se non sbaglio, Luca, cioè in una vecchia intervista, ha detto: se no, il suo menage familiare ne avrà dei problemi. Insomma, meglio così. Rimanga a fare il sindaco. Ecco. Beh, comunque è vero quello che dice Paola sul fatto che non sia una costruzione, anche perché se fosse una costruzione la moglie sarebbe presente, sarebbe stata per così dire usata, perché avrebbe fatto molto comodo, essendo anch'io li ho conosciuti insieme, e devo dire Agnese Renzi potrebbe essere un'arma importante, secondo me. Hanno deciso insieme perché lei ha deciso di conservare la sua vita, la sua privacy, almeno in questa fase, giustamente, perché devo dire, questa è la dimostrazione che la coppia è vera e ha queste dinamiche. Sì, anche perché con tre figli deve andare avanti. C'è anche invece il centrodestra, crozza neanche sulle primarie del centrodestra, sentiamo, vengono lì qui, poi ci saranno, non ci saranno, non lo so, per Crozza finirà così. Anche le primarie del PDL comunque saranno a doppio turno. Nel primo turno scelgono gli elettori, nel secondo turno Berlusconi. È tutto perfetto. Ecco, queste le primarie del PDL. Secondo Crozza, prima di andare al traffico, quanto credete da 0 a 100 a quello che è successo al rapimento della Giulia Spinelli? Luca Dini. Cos'è? Paola Saluzzi ha già risposto. 70, cioè 70, credi abbastanza. Cioè. 70 credi e 30 sì. Sono un po'. Bisogna vedere che cosa, però. Sì, certo, ecco, i sequestratori che rimboccano le coperte alla moglie di Spinelli è poco credibile, però magari è successo anche abbastanza. Questo. Rientra tra i 30. Paola Saluzzi? Anche i sequestratori hanno un cuore. Hanno anche una mamma, uno dei sequestratori pare che abbia detto anch'io una mamma alla moglie di Spinelli. 70-30, sì, siamo come sempre in tandem, io con un grande onore mi unisco al tandem del direttore. Va bene. È vero che c'è una fortissima evasione fiscale, ma c'è anche un regime fiscale intollerabile. Tagliate gli sprechi. Io in realtà sono arrabbiata proprio con lei, perché lei ha detto in una puntata una frase orribile, prendendo in giro i tedeschi, dicendo: ah, ci rifilano i Rolex falsi. Io non mi sento il ci, noi italiani. Il tedesco si è difeso e si è messo il Rolex falso perché sa benissimo che a Napoli rubano. Faccio il camionista, ieri ho parlato con un rumeno, mi ha detto: io me ne torno in Romania, guadagno 200 euro meno, ma vivo meglio invece di stare a fare lo zingaro per 1.800 euro al mese. Con tutte queste tasse me ne torno in Romania. Milan, svegliamoci tutti per favore, si arriverà a rubare fra i poveri. A Radio 24 siete tutti dei fregni, che in abruzzese significa che siete grandi. Per i nostri politici ci vorrebbe una passata in quattro ciciste. Se vuoi sapere che cos'è, c'è il mio numero. A questi politici ladroni, a questa oligarchia di furfanti, vi propongo che li facciamo uscire dal palazzo, tutti in fila, con un bel giubbottino catarifrangente, e li mandiamo a pulire le strade d'Italia, a cominciare dalle consolari che partono da Roma, tutti in fila a scopare le strade, perché è quello che si meritano. Così pigliamo due piccioni con una fava, ci adeguiamo agli standard europei e ci liberiamo dei spizzozzoni. 21 caporedattori. Ma capisci perché la gente si incazza? 21 caporedattori. A parte che se c'è qualche abruzzese, se mi aiuta a capire che ci ha detto, che servono a quei politici, io non lo so. Voi mi sapete aiutare, sapete l'abruzzese. Ai politici servirebbe, ma io non ho capito. Non ho capito. Però 21 caporedattori sono quelli che stanno alla regione Sicilia. Ieri avevamo il segretario dell'associazione stampa siciliana a difendere questa cosa, a dire, e per statuto potrebbero essere anche 24. Luca Dini, tu quanti caporedattori hai a Vanity Fair? Quale fai? Io ne ho 4, credo. 4, ecco, alla Regione Sicilia. 21. Ovviamente tutti i capi redattori, che come dice ieri bene Gramellini, semanticamente è un capo redattore, vuol dire che è a capo di alcuni redattori, sì. Mentre invece lì sono capo redattori di se stessi. Però 21 capo redattori. Se no, la sensazione è quella di avere un esercito di soli colonnelli. Sì, esatto. Ma i colonnelli comandano chi? Chi lo, no? Sa? 21 caporedattori. Mi ha molto impressionato la signora scandalizzata per il C, hanno rifilato i Rolex. Sì, signora, perché ieri. Ma si rilassa, ma no, ho seguito Alessandro, ma ti seguo tutte le mattine. Ma tu non sai, mi hanno scritto da Napoli, mi hanno detto che ho insultato i napoletani dicendo che i napoletani rubano. No, ieri non erano napoletani. Ma no, non erano napoletani. I napoletani sono geniali. Non ma certo, ma voglio dire, ma è chiaro che io ce l'avevo, hanno rifilato, ieri è successo questo, lo dico anche a Luca Dini, il capo scorta del presidente tedesco è andato a Napoli e gli hanno puntato la pistola alla testa e gli hanno rubato il Rolex. Ma il Rolex era falso, allora io ho detto è il primo caso di tedeschi che rifilano un pacco ai napoletani, e tutti mi hanno scritto i napoletani sono onesti, ma sì, a quei napoletani che facevano la rapina, mannaggia. Una frase geniale, perché quello è stato un gesto che il compianto Dino Risi con Operazione San Gennaro avrebbe messo nel film. Infatti. A Napoli la gente è intelligente, non ce la prendiamo per queste cose. No, ma hanno scritto un docente universitario, ha ottenuto un carteggio ieri, gli rispondevo, cercava di dire. Poi gli ho detto, senta, guardi, se si è offeso mi dispiace, io non so cosa. Dagli la parte offesa di al gatto, sì, vabbè. Comunque Luca Dini, 21 caporedattori, oggi appena arrivi in redazione. No, sì, tutti... devo dire, trovo scandaloso soprattutto il tentativo di difesa, perché insomma non c'è ragione al mondo per cui ce ne debbano essere forse nemmeno tre. Ma no, ma infatti Crocetta è arrivato, ha detto questa cosa non si può fare e basta, non si può fare, la cuccagna è finita, e se è finita deve finire per tutti. Però vi voglio far ascoltare questa per parlare di un tema, un dibattito sempre molto intenso, quello sui diritti civili, i diritti per le adozioni alle coppie omosessuali. Sentite ieri Flavia Vento, che era da Cristina Parodi, al Cristina Parodi Live, che cosa ha detto. Lei difende la famiglia tradizionale, uomo-donna. Perché io comunque sono nata con l'idea di una famiglia, che comunque la famiglia è composta in natura, secondo me, da un uomo e da una donna. Adamo ed Eva, se vogliamo parlare nella Bibbia. Adamo ed Eva, eccoci qua, Luca Dini. Vabbè, magari l'ha presa un po' alla lontana. Poi prima Miriam Lucchetti mi ha detto infatti hanno cresciuto due bei figli Adamo ed Eva, si sono ammazzati. Esatto. Grande Miriam. Ma al di là di questo, direttore, il tema è dibattuto. Sai che però io al di là di Adamo ed Eva non è che sono proprio in disaccordissimo con Flavia Vento, cioè l'idea dell'adozione alle coppie omosessuali non è che per la crescita psicologica, psicofisica giusta un bambino abbia bisogno di una figura femminile e una figura maschile? È un dibattito certo interessante e delicato. I risultati che arrivano dagli studi fatti nei paesi dove questo avviene da tempo sembrano dire che i bambini adottati da coppie omosessuali non risentono in nessun modo di questo fatto, soprattutto, aggiungo io, quando la società è pronta per accoglierli. Perché il vero problema, come sempre, è l'accettazione dagli altri. Non credo affatto che possa essere all'interno della famiglia, anche perché una famiglia funziona se c'è amore, e l'amore non dipende dalla composizione sessuale della famiglia. Questo sì, però Paola, tu che ne pensi su questo? Allora, la delicatezza del tema, Alessandro, aggiungo questo. Ieri era la giornata mondiale dell'infanzia, sì. Quanti bambini vivono in condizioni drammatiche con un papà e una mamma. Quanti bambini vedono il peggio in una famiglia, virgolette, normale. Mm. Sicuramente i bambini che si adottano non li si adotta perché è arrivato il giocattolo a casa o perché si vuole giocare a fare i genitori. Ecco, questo è molto importante che non avvenga sotto nessuna latitudine. Ma se il mondo intorno sarà pronto ad accogliere un bambino cresciuto da una famiglia non tradizionale, come un bambino cresciuto comunque da una famiglia, allora avremo un senso di evoluzione. Mm. Con questo non voglio aver detto tutto e niente, intendo dire è un lavoro corale, comune, di umanità,

non è stato alla sua altezza e nemmeno all'altezza propria di quella dedizione al suo prossimo incarcerato che dichiarava, e magari con una sua storta convinzione. Avrà bisogno anche lui di una difficile pietà. Ma la cattiva notizia che viene da San Vittore non basta a guastare la bella notizia che vi arriva. La differenza la farà uno scopino di San Vittore. Si chiama così il detenuto che spazza il pavimento. Sarà sera, le celle saranno chiuse, ci sarà lui con la sua ramazza e un agente col suo mazzo di chiavi. Guarderanno quel figlio macilento e slogato che scivola giù dall'abbraccio della madre, sembra intanto tornarle in grembo. L'assessore che ha avuto l'idea era mosso da un'ambizione pubblicitaria? Ma la pietà rimessa al centro dell'attenzione rimetterà al centro anche la galera, che in tanti avrebbero voluto sloggiare in qualche ultima periferia per liberarne il cuore della città, farci su qualche affare. Qualcuno si offenderà per quel privilegio impensabile, il più commovente Michelangelo per il posto più infame. Hanno la TV e ora la pietà, i 1600 ammucchiati nello spazio da 500. Ma lo scopino e la gente delle chiavi staranno lì all'ora di chiusura a guardare, ciascuno coi suoi pensieri. Poi se ne andranno a dormire, uno nel suo pezzo di cella e l'altro nella sua branda di caserma, e si addormenteranno con la compagnia che sanno loro. Questo Adriano Soffri, secondo me, è un modo alternativo, diverso, bello per raccontare le due notizie che provengono dal carcere di San Vittore ieri. Una bella per Adriano Soffri, una davvero pessima. Eccoci alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, voglio salutare subito il primo ospite di oggi nostro, che è il sindaco di Modica, siamo in provincia di Ragusa, Antonello Buscema. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi. Benvenuto, l'abbiamo chiamato. Grazie. Oggi la stampa dedica mezza pagina a Modica, non so se l'ha già letta, perché guardi, gli ha detto subito così, il titolo è questo: il paradiso degli assenteisti, il comune di Modica. La procura ha indagato e ha scoperto che 106 dei 126 dipendenti, quelli che stanno in municipio, verranno rinviati a giudizio per assenteismo. Com'è sta storia, sindaco? Intanto i dipendenti sono 106 sui 120 di Palazzo San Domenico, ma i dipendenti del comune di Modica sono 550, 560, sì, per cui sono sembra di più, giusto sono dire di che non riguarda tutti i dipendenti. Comunque sono fatti che risalgono a circa 2 anni e mezzo fa, e oggi c'è la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura, e questi fatti che risalgono a 2 anni fa hanno permesso a questa amministrazione, sia con i provvedimenti di controllo e di preventivi, sì, che noi abbiamo messo in atto, sia grazie ad una maggiore consapevolezza dei dipendenti, di quasi azzerare questo fenomeno, che è quello poi di allontanarsi dal posto di lavoro. Quasi azzerare, lei dice adesso. Lei dice azzerare adesso, però mi scusi. Abbiamo azzerato adesso, già questo fenomeno è praticamente inesistente, atteso che questo è quello, gli atti a cui si riferisce la procura sono riferiti a circa 2 anni e mezzo fa, quando io ero all'inizio della mia amministrazione, quindi a seguito di questo campanello dell'allarme abbiamo attivato tutte le procedure, abbiamo avviato poi i provvedimenti disciplinari per tutti coloro che sono coinvolti, chiaramente li abbiamo sospesi in attesa del giudizio finale, perché l'unico atto che abbiamo preso è quello di licenziare uno dei indagati in quanto era reo confesso, poi il giudice del lavoro l'ha reinserito in servizio. No, questa me la spieghi, scusi, cioè c'è uno dei dipendenti, di questi 106 abbiamo che andranno a processo. Il provvedimento disciplinare, ma l'abbiamo sospeso in attesa del giudizio. Cioè mi faccia capire, questi 106 che verranno rinviati a giudizio in questo momento lavorano comunque al comune di Modica? Lavorano comunque di Modica, hanno avviato un provvedimento di lavorano, poi lavorano sospeso, anche mentre uno che 2 anni fa, ripeto, perché i fatti si salgono a 2 anni fa, è stato licenziato perché appunto era reo confesso e quindi non c'era bisogno per legge di aspettare il giudizio finale, sì, il giudice del lavoro l'ha reintegrato, ma perché no? Cioè questo reo confesso ha detto: l'unico che siete riusciti a licenziare perché reo confesso, il giudice l'ha reintegrato. Per quale motivazione l'ha reintegrato? Me lo dica, signor sindaco. Ancora lui si è difeso che il giudizio comunque ancora non era definitivo. Ma se era reo confesso? Sì, era reo confesso, questo dovete chiedere al giudice del lavoro. Tra l'altro, voi capite che se noi prendiamo dei provvedimenti definitivi in attesa di giudizio e poi giudizio deve essere positivo per l'imputato, esponiamo la pubblica amministrazione alla richiesta di risarcimento danni, quindi sì, certo. Cioè, se voi, se lei adesso dovesse dire ok, questi 106, visto che è accertato che hanno fatto questa cosa, li mando via. Accertato, cioè nel senso, ci sono, ci sono delle telecamere che li riprendono, uno sì, mentre va in pescheria. No, sono situazioni completamente differenti. No, per carità. Però io leggo dal comunicato della procura: uno si allontanava per andare in sala da barba per rassettarsi i capelli e barba, uno andava in pescheria, una per accudire la figlia, uno evidentemente annoiato era solito trascorrere la giornata in macchina ad ascoltare musica, un altro sono le accuse di cui loro dovranno rispondere, però voglio fare presente che ci sono anche persone che si sono probabilmente allontanate magari due minuti per prendere un caffè, per cui la responsabilità è personale, è giusto che vada accertata singolarmente. Tuttavia io ribadisco il fatto che il provvedimento disciplinare non l'abbiamo avviato, ma anche su indicazione del segretario generale ci ha deciso di non procedere a provvedimenti drastici in questo momento, perché esporremmo la pubblica amministrazione alla richiesta di risarcimento danni. Atteso che, ripeto, l'unico caso in cui addirittura c'era la confessione del reato. L'hanno reintegrato. Senta, però le devo chiedere questo. Sindaco, com'è possibile che i dirigenti che erano a capo di questi dipendenti non si siano accorti di nulla? Dico, cioè, ci devono sempre, perché sono intervenuti i cittadini a fare delle denunce. Com'è possibile che nessuno si accorga di questa cosa? Per cui appena ci siamo insediati, sia il segretario generale sia il sottoscritto abbiamo fatto delle circolari, chiedevamo ai dirigenti di vigilare più attentamente su questo. Vigilare più attentamente le circolari. E questo è il motivo per cui ora in questi due anni siamo riusciti come a debellare il fenomeno. Grazie, devo dire, anche della maggiore consapevolezza dei dipendenti, che si sono resi conto appunto che forse stava eccedendo. In pescheria si va. Era poi quello per alcuni di allontanarsi in maniera sistematica, per cui dovranno rispondere di reati abbastanza pesanti, di comportamenti abbastanza gravi. Gli altri magari che sono rimasti nella maglia, ma in realtà c'è gente molto seria, lavoratori che magari avevano la colpa di allontanarsi, cioè, comunque sono tutti quei fatti che devono essere accettati dalla magistratura. Per cui sì, ma questo sì, però sindaco, è personale, questi qui che adesso stanno lì, che perché dice non li possiamo allontanare, se no ci esponiamo anche a possibili ritorsioni, lavorano almeno adesso, vanno in pescheria anche adesso? Sicuramente lavorano, questo fenomeno ormai non esiste più al comune di Modica. E soprattutto la cosa importante è che, ripeto, tra i centri indagati c'è molta gente, lo posso assicurare, che sono grandi lavoratori che, ripeto, sono rimasti impigliati nelle maglie di reati assolutamente secondari, come questo, quello di allontanarsi per 5 minuti. Il caffè, la pausa, la responsabilità è personale, non si può generalizzare e va accertata caso per caso. Ci sono casi molto gravi, ci sono casi assolutamente. Però, sindaco, all'impegno di questi lavoratori. Quanti abitanti fa Modica? Modica fa 55.000 abitanti, 55.000. È una bellissima cittadina del sud-est del barocco siciliano. Vabbè, facciamo un po' di pubblicità, giusto anche per il turismo a Modica. Però, senta, 542 dipendenti in comune, in totale. Sono 560. 560, mi scusi, sono un po' troppi. Purtroppo è uno dei motivi per cui in particolare il comune di Modica è in grave difficoltà finanziaria. E infatti state quasi al dissesto finanziario, e per forza, cioè che cos'è, uno stipendificio? Stipendificio no, perché la gente in gran parte lavora. Il problema è che noi abbiamo, nonostante da anni ormai non facciamo assunzioni, voglio ricordare che ogni anno diventano circa 10-20 persone, solo sotto ogni amministrazione sono diminuite circa di 50-60 unità le unità di personale. Tuttavia abbiamo un'eredità del passato che costringe appunto l'eredità a del passato. Sì, ma cos'è che porta a questa situazione? Che è un po' uno stipendificio, cioè, se assumono le persone, perché mi dica onestamente di quante persone avrebbe bisogno per funzionare bene, persone efficienti che lavorano in un comune come Modica. Allora, il problema è che negli anni 80, negli anni passati, la pianta organica del comune di Modica, in barba ad ogni limite di legge che non erano molto tassativi, fu fatta di circa 1.000 persone. Ah, quindi c'è andata bene, c'è andata bene. 800 persone che poi negli anni sono state man mano messe in pensione, ma che poi chiaramente questo processo di liberazione. Cioè ci sta dicendo che ci va anche bene, che ce ne sono solo 560. Certo, perché la pianta organica degli anni 80 fu fatta di 1.000 persone. Poi c'è stata anche qualche società partecipata che è stata fatta negli anni in maniera, diciamo, eccessivamente. C'è stato un modo per assumere del personale in maniera indiretta, nel senso che la gente, teoricamente con le società pubbliche, private, miste, diciamo, erano delle società miste, ormai sono pubbliche, si dovevano esternalizzare i servizi, cioè fare sì che i servizi fossero fatti da questa società mista, in realtà si sono internalizzati i servizi, perché questa gente ormai, essendo dipendente di società pubbliche, sono stati, si sente, tra virgolette, dipendente pubblico, sì, dipendente comunale. Però le ripeto la domanda: secondo lei, con quante persone un comune come Modica, società municipalizzata, società compartecipata, eccetera, potrebbe funzionare? 200, 100? Comune di Modica, considerato che è una città di 55.000 abitanti, con gli abitanti sparsi su tutto il territorio, perché 15.000 persone vivono nelle campagne, in base alla situazione finanziaria che oggi ha, non dovrebbe avere più di 300-400 dipendenti. 300, beh, tra 300-400 già c'è una differenza. Diciamo 350, va, facciamo una media. 350 dipendenti, non poi, di più. Se tariamo sull'esigenza dei servizi della popolazione, possiamo anche salire. Se partiamo invece dalla situazione finanziaria del comune, potremmo anche scendere. Però intanto questi, sì, però lei dice basterebbe prendere questi che andavano in pescheria, ma non si può fare, se no me li reintegrano. Io vorrei, ma visto che è arrivato il provvedimento del giudice, quello che ha reintegrato il reo confesso, cosa c'era scritto in quel provvedimento? L'avrà letto, no? C'era un provvedimento che noi abbiamo preso 2 anni fa, io non l'ho rivisto. Come mi ricordo, sostanzialmente, che era basato sul fatto che l'interessato intanto contestava la confessione, sempre diceva che gli contestava, avete storto, gli è stata estorta la confessione. La legge prevede che prima, fino a quando non c'è il giudizio definitivo, non si può condannare una persona. Ma secondo me, neanche dopo il giudizio definitivo si troverà un modo per reintegrarlo. Guardi, questo è un nodo che mette praticamente in difficoltà, perché non permette agli amministratori di selezionare il personale serio, la gente seria, che ce n'è tanta nei comuni, da quelli che invece vanno appunto in pescheria. È quel piccolo nodo legislativo che fa dire a molti: ma io me ne migro in Ghana, quindi magari c'è più rispetto delle regole. Non è solo caso dove gli sindaci non abbiamo strumenti per intervenire nell'amministrazione dei nostri comuni. Però sui dirigenti, sui dirigenti, lei le circolari, cioè sensibilizzare, evidentemente c'è poco da sensibilizzarci, cioè bisognerebbe prendere un dirigente per le orecchie in maniera metaforica e dirgli: oh, ma che stavi a controllare tu? Non so, per esempio, non gli do il premio quest'anno, no? Questo sicuramente, produttività. Guardi, i premi li abbiamo tolto a prescindere da questo aspetto, perché non ci sono i soldi per darli. Ah, ecco, niente premi, niente soldi, niente premi. Questo purtroppo è una situazione drammatica. Tutti gli enti locali sono in una situazione drammatica, e forse non ci si rende conto, certo, che, continuando a prescindere da questi aspetti, il sistema degli enti locali rischia di saltare, se sarà un fatto grave. Rischia di saltare anche per questi conti insostenibili. Intanto, sindaco, la ringrazio, staremo a vedere se almeno quel reo confesso ce la farà. Lei comunque non si sente il sindaco del paradiso degli assenteisti, no? No, assolutamente, no, posso assicurare che... Anzi, ripeto, anche perché in questi anni qualcosa abbiamo cercato di farlo, qualche risultato penso che l'abbiamo ottenuto. Più un paradiso turistico, Modica, Ragusa, grazie. Preferisce così. Va bene, grazie a lei, il sindaco di Modica in provincia di Ragusa, Antonello Buscema, dove la procura ha rinviato a giudizio 106 dei 126, quindi l'85% dipendenti proprio del municipio, i dipendenti totali del comune in generale sono 560, ma 126 lavorano in municipio, di questi 106, l'85%, chi andava in pescheria, chi andava a farsi i capelli, chi annoiato passava la giornata per ascoltare musica nella propria autovettura, chi era solito assentarsi per accudire i figli, chi per accudire la figlia, chi per accudire i figli e trascorrere il pomeriggio seduto al bar. Leggo dal comunicato della procura. Beh, almeno i bar di Modica faranno affari. Ci fermiamo, poi che ne pensate, ascoltatori, di questo sequestro del cassiere di Berlusconi, Spinelli? 800 24 00 24, che ne pensate? Una banda di sbandati che ha fatto un qualcosa che non ha saputo gestire dal primo secondo, oppure le stranezze, è il cassiere delle olgettine, siete più diciamo sospettosi, complottari, oppure pensate semplicemente che è un episodio di cronaca nera derubricato a tale e di questo dovremmo parlare, niente più? Diteci la vostra, come siete catalogabili tra i complottari, pistaroli, tra coloro che vedono come un episodio di cronaca nera che è finito così in burletta, anche con degli aspetti quasi da farsa, da tragicommedia, che ne so, il sequestratore che rimbocca le coperte alla moglie di Spinelli durante il sequestro, oppure il sequestratore che gli dice non si preoccupi, anch'io ho una mamma, non succederà nulla, oppure quando pregano col rosario la moglie e Spinelli durante il sequestro, una scena sicuramente avvenuta ancora addirittura quando Spinelli dà il passamontagna a uno dei sequestratori che andando via se l'era scordato lì, dicendo quasi mi immaginato, immaginatevi la scena, questo è vostro, non vi scordate il passamontagna. Oppure che cos'è? Semplicemente una banda di sbandati questa che ha tentato il colpaccio andando a colpire una persona vicina al presidente Berlusconi, uno che i soldi li ha. Ne parliamo con Paolo Colonnello, che è cronista di giudiziaria della Stampa e che saluto. Buongiorno Colonnello e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Saluto anche Pino Corrias, scrittore, che oggi tra l'altro sul Fatto Quotidiano si esercita e che ha scritto anche un testo teatrale che in qualche modo riecheggia tutto questo. Corrias, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, se uno legge Paolo Colonnello oggi sulla Stampa, pagina 7, già dal titolo, io l'ho fatto in rassegna Stampa, il guastato, il Zanza e gli altri, insomma, colonnello, mi sembra di capire che sicuramente questi non erano dei sequestratori fatti e finiti con una professionalità alle spalle molto molto granitica, ecco, possiamo definirli così? Cioè, in realtà questi erano dei personaggi pericolosi, sono dei personaggi pericolosi, però non erano attrezzati per il colpo grosso che avevano in mente di fare, cioè chiedere e ottenere 35 milioni di euro, niente meno che dall'ex Presidente del Consiglio, il quale è vero che ci ha abituato a colpi di scena e a situazioni quasi incredibili, vedi il pagamento di un numero non ben determinato di ragazze di Arcore stipendiate mensilmente con 2.500 euro, però insomma 35 milioni di euro sono 35 milioni di euro. Non erano particolarmente attrezzati, e però ci sono delle incongruenze anche in questo, cioè è vero che il capobanda si presenta con le scarpette rosse e le stringhe nere del Milan, però al tempo stesso, prima di entrare nella casa di Spinelli, fanno tutta una serie di monitoraggi, di pedinamenti, sì, di sopralluoghi fin dal giugno scorso. Cioè da professionisti, quindi, però da poi hanno dei comportamenti, che ne so, uno che ordina una Ferrari, cioè proprio manco romanzo criminale hanno visto, sì, no? Dire però, prima cosa non dare nell'occhio. Ecco, attenzione, ci sono alcune cose che sono sembrano subito suggestive, no? Questo qua, cioè finito il sequestro, ordina una Ferrari, quindi uno dice caspita, allora gli hanno tenuti questi soldi, dopodiché si scopre che è figlio di un facoltoso imprenditore e che forse aveva i soldi anche proprio per potersi comprare una Ferrari. Sì. E quindi siamo ancora, diciamo così, in mezzo al guado, non si è ancora capito esattamente. Certo, c'è persino il sospetto che si fregassero tra di loro, perché Maier, uno dei tre personaggi italiani di questa scombiccherata banda, è uno noto nella zona di Como per grosse fregature, insomma, cioè è stato il Zanza, quello che tirava i pacchi sulle auto anche ai grandi calciatori. Sì, quello che tu definisci il Zanza, insomma, uno che è abituato uno che è abituato a zanzare. Oh, allora, tra l'altro, come scrivi poi oggi sulla Stampa, tutti i misteri sono legati anche al fatto che ci sono un 30 ore più o meno di buco dalla fine del sequestro alla denuncia ai carabinieri e dal fatto che riguarda Silvio Berlusconi. Tutto quello che riguarda Silvio Berlusconi si ammanta anche un po' di mistero all'interno di questo straordinario paese. A questo proposito, io vorrei andare da Pino Corrias, che, come tutti, hanno ritirato fuori giustamente questa opera teatrale, Il contabile e le murene, che Corrias ha scritto, pubblicata quest'anno, e nella quale ci sono delle ragazze in un paese innominato che partecipano a cene eleganti e che a un certo punto decidono di aggredire fisicamente un ragioniere, tale ragioniere Biassoni, perché non arrivano più i soldi. Allora, Corrias, che cos'è questa fanta racconto superato dalla realtà? Ma guarda, in realtà si trattava di, come dire, di cucinare tutti gli elementi che stavano già sulle pagine di giornali da molti mesi. C'era un bancomat praticamente permanentemente aperto, c'erano delle ragazze che partecipavano a queste cene eleganti e che ritiravano ogni settimana la busta per aver partecipato a queste cene. C'era un ragioniere mitissimo in tutto questo ambiente di ultramiliardari e di ragazze molto esuberanti, un ragioniere mitissimo che si vedeva sfilare appunto all'inizio di ogni settimana la sequenza di queste ragazze che ritiravano le buste. Io mi sono limitato a immaginare cosa sarebbe potuto succedere se queste stesse ragazze non avessero più avuto il mezzo, il modo di mettersi in contatto con il loro bancomat, il presidente con la P maiuscola, perché lo scandalo è scoppiato sui giornali e il presidente è sparito, e allora vanno nell'unico posto per loro possibile, il cioè bancomat. dal ragioniere, il bancomat, e siccome lui non ha ricevuto disposizione di pagare più nessuno, decidono di sequestrarlo e lo sequestrano per un intero giorno. Io ho ambientato la storia direttamente nell'ufficio del ragioniere, del fantomatico ragioniere. La realtà come sempre supera la fantasia, quando hai letto di questa realtà, di questo racconto, che hai pensato? Che insomma... Beh, non ho tanto avuto tempo di pensare, perché ha cominciato a squillare il telefono, sono arrivati i messaggi, telefonate, tutti che mi dicevano: hai visto cosa sta succedendo? No, io penso che la storia sia straordinaria naturalmente e che sia completamente attendibile, diciamo, fino all'alba del 16 ottobre, cioè sì. È avvenuta così, c'è stata questa notte molto cinematografica dei sequestratori e dei sequestrati che pregano insieme, e poi i sequestratori che mettono a nanna i sequestrati, e poi invece il grande buco si apre come sempre quando entra in scena, diciamo, i personaggi grossi, e ci sono questi 31 ore di buco. C'è una trattativa che in realtà i sequestri lampo prevedono, che appunto tu sequestri una persona e nel giro di poche ore ti fai dare dei soldi. Ecco, ma lì infatti è lì che nasce un po' il mistero. Vorrei da Paolo Colonnello, che segue ovviamente l'inchiesta, immagino anche dagli inquirenti, insomma, ci sia questo buco di 31 ore. Ora, quali sono le versioni date dall'avvocato Ghedini, Colonnello? Perché prima ha detto avevamo paura, o meglio Spinelli aveva paura, poi mi pare che abbia anche detto, ma ci ha detto solo un giorno dopo che era stato sequestrato. Cioè, qual è la versione che circola e più ufficiale su queste 31 ore? Cos'è successo dalla mattina in cui escono i sequestratori di casa fino alla denuncia che avviene al pomeriggio dell'indomani? Allora, intanto l'avvocato Ghedini, diciamo così, ieri racconta un tipo di verità che io ho pubblicato sul sito della Stampa, una breve intervista dove lui dice: ma no, quelle carte avevamo capito che erano un bluff. E poi dice: ma in realtà noi ci mettiamo quasi subito in contatto con la procura la sera stessa, ma forse si confonde nell'immediatezza degli arresti, perché poi ieri la versione cambia leggermente, diventa questa: Spinelli raggiunge Arcore finalmente dopo essere stato liberato la mattina del 16, non racconta di essere stato sequestrato, ma di essere stato raggiunto in una località non precisata da degli emissari di un non meglio precisato studio legale, che lo avrebbero pressato affinché Berlusconi pagasse per ottenere questi documenti che avrebbero ribaltato le sorti della sentenza sul lodo Mondadori, ed è tutto piuttosto confuso, ma non ammette mai di essere sequestrato, benché, diciamo così, sia l'avvocato Ghedini che Berlusconi subdorino che qualcosa di un po' più pesante sia accaduto. Spinelli sarebbe tornato a casa quindi il 16 a dormire con la moglie. Il mattino dopo, pentito di non aver raccontato la verità, sarebbe ritornato ad Arcore per confidarsi col cavaliere e spiegare il finalmente che era stato vittima di un sequestro. A quel punto, il tempo di arrivare da Padova, dove si trovava Ghedini, anzi, Spinelli avrebbe chiesto di aspettare ancora un attimo prima di avvisare l'autorità giudiziaria, perché voleva parlare alla moglie per dirle qual era l'evoluzione dei fatti. Ecco, questa è la spiegazione. Il procuratore Brucchi di Berardi, che ho sentito ieri, conferma, dice: la prima telefonata, il primo avviso di quello che sta accadendo arriva verso le 15.30 proprio da Ghedini, che mi informa di quello che è successo. Sì, c'è da dire che è qui che forse, in questo buco di 30 ore che si insinuano tutti i cosiddetti pistaroli, complottari, chissà mai cosa sarà successo, chissà mai perché l'hanno... Sentiamo Annarita da Roma. Annarita, buongiorno, lei che ci ha chiamato. Buongiorno a lei. Che ne Milan. Pensa? Che idea Grazie si è fatta? Grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. E secondo me è tutta fuffa, come dite voi, perché no, come dite voi, no, lo dice lei, per la verità. Lo dico io, chiedo scusa, ecco. Chiedo scusa. Fuffa, non volevo dire come usate voi la parola fuffa. Ah, come usiamo noi la parola. Chiedo scusa, no, mi correggo, ma non era quella la mia intenzione. Perché secondo me vogliono distoglierci da qualche altra cosa, come al solito. Secondo me è architettato tutto, perfino i rapitori sono tutti quanti della stessa cricca. Così, questa è una mia idea. Ma questi rischiano 10-15 anni di carcere, eh? Che fanno? Non lo so, magari avranno il loro tornaconto. A prendere 10 anni di carcere? Che tornaconto avranno? Magari pecuniario. Ah, non cioè uno si prende 15 anni di carcere ma si prende dei soldi. Vabbè, non sarebbe la prima volta Senta, e poi l'altra cosa, ti ricordo, adesso non mi ricordo se era il direttore di Libero del giornale, quella specie di attentato poi caduto nel nulla, è la stessa cosa. Libero, sì, Belpietro, il direttore di Libero. Benissimo, sì, è la stessa cosa. Quel fantomatico, pistole, non se n'è fatto nulla. È la stessa cosa. Questa è la mia idea. Sì, è la sua idea, va bene, la ringrazio. Anelita, non ho capito architettato per che cosa, scusi? Per questo è il pezzo che le manca. Alla sua, la sua gentile diciamo collaboratrice ho detto, non riesco a capire ancora per che cosa. È il pezzo mancante. È la mia idea. Vabbè, Pino Corrias, prima di andare da Gabriele da Modena, Pino Corrias, Anelita ci dice, ho in mente tutto, mi manca quel tassellino lì, cioè dire che avranno voluto nascondere. Io penso che la verità delle cose che accadono è sempre la via più semplice, se vi ricordate sono 2 anni, 3 anni, da quando è scoppiato lo scandalo di Noemi, la minorenne al compleanno della quale si presenta Silvio Berlusconi a Casoria, che tutti i giornali, un giorno sì e l'altro pure, scrivono, ma non sarà pericoloso per il Presidente del Consiglio frequentare quei mondi? E poi quando viene fuori la storia di Patrizia Daddario, escort barese, poi quando viene fuori la storia delle 10, 20, 30, 40 ragazze che più o meno transitano per via Olgettina e poi per le cene eleganti di Arcole, tutti che scrivono, ma non sarà pericoloso per il Presidente del Consiglio frequentare questa gente? E quando dalle intercettazioni si scopre che lui sta al telefono con Giampi Tarantini che finisce in galera, la Vitola che finisce in galera, Lele Mora che finisce in galera, tutti a dire, ma non sarà pericoloso per il Presidente del Consiglio frequentare questo genere di gente? Questo, diciamo, toglie al netto delle considerazioni politiche che un Presidente in carica frequenti per l'appunto quelle persone. Sì. E tutti che si aspettavano che prima o poi sarebbe successo, ci sarebbero state delle conseguenze. Sì, ma io nella mia, da lettore, la vedo proprio così, cioè di persone che hanno come dire identificato una possibilità di vincere la lotteria perché c'era la lotteria aperta sentiamo Gabriele da Modena, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, dica Gabriele. Io ho un'opinione mia personale. Certo, la dica. Tutte queste cose evidenziano la mancanza di uno stagliere ad Arcore. Prendetela come volete, ma nessuno se ne accorge. Quando c'era lo stagliere queste cose non succedevano. Ah, lo stagliere mangano, vabbè, qua grazie Gabriele. Paolo Colonnello, non lo so, qui... Un po' ha ragione. cioè. Un po' ragione, infatti guarda, qua la cosa è quasi triste, uno dice ma qua si è passati da Mangano agli albanesi, cioè il segno della decadenza dei tempi. No, però i misteri sono legati a queste 31 ore, ma se è vista così, cioè se è raccontata con l'ultima versione di Ghedini, cioè all'inizio Spinelli non ci ha detto per timore, magari temeva di essere ancora, diciamo, in qualche modo seguito, controllato, non ci ha detto, poi quando ci ha detto un po' dopo del sequestro, allora il tempo tecnico per dire che facciamo, abbiamo avvisato la procura. Finisce tutto così oppure bisogna andare... Infatti, cioè... Allora, il problema è che... No, sai perché te lo chiedo, scusa Paolo? Perché oggi il Fatto Quotidiano, su quale oggi per esempio Corrias scrive una pagina, titola in prima pagina Spinelli, le impronte sui bicchieri cancellate nella lavastoviglie dalla moglie distratta del ragioniere. Cioè, è tutto un sospetto, capisci? Tutto un sospetto. Sì, però, allora, questo bisogna anche ricordarsi che il nostro è il paese delle dietrologie, cioè qualunque cosa accada, appunto, diventa subito un giallo, un mistero, eccetera. Io sono più abituato a stare ai fatti concreti e purtroppo, diciamo, poi nella mia carriera ne ho viste tante e ci stanno anche delle cose un po' assurde che sembrano così inventate o fatte apposta. Allora, la signora Spinelli è sicuramente la classica anziana casalinga che, dopo che i sequestratori se ne vanno, ripulisce bene tutta la casa, le fa schifo avere tracce di questo. Sì. Tanto che la Boccassini, quando viene avvisata, richiama Ghedini e dice: ma voi siete matti, cioè in questo modo avete, c'è il rischio di inquinare la scena del delitto, perché arrivano subito con la scientifica, no? E infatti trovano, poi riescono a trovare, per fortuna, delle tracce organiche, ovvero dei residui di saliva sulle sigarette fumate da Leone, da cui ricavano il DNA, e questa prova lo incastrerà definitivamente, no? Cioè è lui che è stato lì. Quindi già questa è una cosa singolare, ma che la signora Spinelli abbia lavato i bicchieri va bene. Il problema qui è capire intanto che cosa avevano in mano questi sequestratori, cioè ma possibile che arrivino nella casa di Spinelli e propongano di ottenere 35 milioni sì. in cambio di carte che dovrebbero cambiare gli esiti della sentenza dell'8 sì. Mondadori. Scusa, con una chiavetta, no, con una chiavetta tra l'altro sì. non compatibile, che non riescono a vedere nel video, ma che mi immagino la scena parli, porca miseria, però, non scusa, è compatibile. No, però io voglio far notare una cosa. Allora, va bene che questi sono degli improvvisati, no? E quindi ci sta anche che provino a fare un colpo su questa cosa qua dell'8 Mondadori, ma chiunque si occupa un pochettino di legge, di giustizia, sa perfettamente che per smontare una sentenza come quella del Lodo Mondadori hai voglia di avere carte, altro che una cena di fini con dei magistrati. Sì. Cioè, qui se ne sono occupate decine di giudici. E poi, scusate, è vero che in Italia ognuno crede ciò che vuole a proposito di giustizia, ma ci sono delle sentenze perfino penali, cioè è un dato di fatto acclarato, perché la sentenza è passata in giudicata, che il giudice metta quello che poi si occupò di fare l'8 Mondadori venne corrotto. Allora non è che puoi smontare, no, ma è chiaro, con una chiavetta delle carte, cioè pensi veramente di poter chiedere 35 milioni sulla base di queste scemenze? Ma infatti, allora, infatti ecco perché si parla di un filmato, allora tutti dicono no, sarà stato il ricatto sessuale, ma anche qui, cioè, uno può inventarsi tutto o immaginarsi tutto ciò che vuole, e purtroppo tutto il comportamento di Berlusconi finora autorizza, diciamo così, a immaginarsi l'inverosimile. Però diciamo che documenti o filmati non ne sono stati trovati, soldi non ne neanche. Sono stati trovati, le pistole erano giocattoli, sì, sì. Un sequestratore che ti entra in casa con le scarpe rosse del Milan fa sì, obiettivamente un po' ridere. 3 giorni dopo il sequestro gli inquirenti già avevano capito chi era stato e li tenevano sotto. E li tenevano sotto controllo. In 30 secondi, Corrias, come finisce nel libro, nel contabile Lemurene, la vicenda del sequestro lì? Ah, che naturalmente, beh, insomma, lo dico e non lo dico, sì. nel senso che alla fine di questa giornata di tregenda, a un certo punto anche le ragazze fanno un errore e fanno entrare dalla porta una persona che sembra essere un fattorino di HL, che invece non è. E non è. È lì un po' degenera un po' tutto. Vabbè, intanto io vi ringrazio. Rimangono chissà se misteri, ma io la leggo, ripeto così, un sequestro finito male. Grazie a Paolo Colonnello e a Pino Corrias per essere stati con noi. Ci riascoltate se volete su radio24.it e ci seguite se volete su Twitter. Alino Milan sono io, 24 mattino la trasmissione. Con Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè, vi diamo l'appuntamento a domani alle 6.30.